nuovo in diretta dopo lo spazio iniziale dedicato al Mambo, riprende in nome dell'arte, delle esposizioni e anche del palcoscenico a teatro, così facciamo un collegamento con la rubrica in scena di domani. Sarà un appuntamento che avrà spazio nella giornata di domenica, ma ne avremo informazioni più esatte dalla nostra ospite che già abbiamo conosciuto, ma è sempre un piacere trovare in studio Ilaria Chia. Buongiorno Ilaria. Buongiorno, grazie a te dell'invito, è un piacere anche per me. È una mattiniera Ilaria Chia e quindi non so se in maniera forzata, scusate il colpo di tosse per questa risatina che mi è scappata in seguito a tutto ciò, però per dare approfondimento a questo insieme di espressioni artistiche, giustamente con Ilaria, storica dell'arte, ricercatrice, abbiamo conosciuto lavori in collaborazione con il Museo dell'Ottocento e altri aspetti, insomma, che l'hanno portata vicino a una protagonista dell'arte legata alla nostra città. Stiamo parlando di Carlotta Gargalli. Nel suo lavoro, così portiamo anche un po' di letteratura, oggi le comprendiamo tutte le rubriche del Breakfast Club, L'allieva di Canova, il lavoro di Ilaria, che ho letto attentamente, è un percorso, oltre che da prendere per l'emozione e per la bellezza della scrittura, anche qualcosa che aumenta la nostra conoscenza per la nostra città e non solo, anche per ovviamente una protagonista che è stata molto importante per i percorsi artistici e non solo per Bologna, come ho detto. Questa tua passione per Carlotta Gargalli, com'è nata? È nata come storica dell'arte, ho incominciato ormai una decina di anni fa a fare delle ricerche sulle pittrici bolognesi del primo Ottocento e tra queste ho scoperto la figura di Carlotta Gargalli, che mi ha subito molto colpito perché è una donna, era stata completamente dimenticata, in realtà aveva dei tratti molto interessanti, è stata ad esempio la prima donna a entrare nell'Accademia di Belle Arti di Bologna nel 1804, è andata a Roma a studiare con Antonio Canova, è stata appunto allieva del Canova, quindi un fatto straordinario per una donna, ed era stata, diciamo, era diventata una pittrice famosa in città a Bologna, tanto che era stata definita l'Elisabetta Sirani dei nostri giorni, quindi mi sono chiesta come mai che questa donna, che appunto ha dimostrato tanto talento, era stata così completamente dimenticata. Mi sono messa a fare ricerca anche all'Archivio di Stato di Bologna, insomma tra i documenti, tra le opere della Pinacoteca, e ho trovato delle cose veramente molto interessanti, e questa Carlotta Gargalli appunto è stata una donna, oltre che una grande pittrice, anche una donna emancipata per l'epoca, ebbe due matrimoni, si sposò per amore e finì appunto andando a Roma, aprendo una galleria di arte a Roma nel 1840, quindi anche questo è un fatto davvero insolito per una donna del tempo, perché allora gestire questo genere di attività erano gli uomini, e quindi lei appunto mi ha colpito anche per la, come dire, modernità del personaggio. Parleremo di ispirazione artistica e intanto alcune righe. L'allieva sentì che la delusione era troppo grande per essere masticata in silenzio. Allora si avvicinò al maestro fino a sfiorarlo. Dite che il mio ritratto è brutto, invece di sostenere che è bello per essere fatto da una donna, gridò. Il pittore la fissò sbalordito, stupito che una diciottenne osasse rivolgersi a lui con quel tono. Ecco, questo già dà l'idea di una personalità ripresa nelle righe dell'allieva di Canova di Ilaria Chia, che ovviamente è a vostra disposizione e che è consigliatissimo per quanto riguarda lavori tra arte e letteratura. Allora, il percorso del lungo Ottocento con eventi, diciamo, che ne danno un corredo molto importante, è un'esposizione continua, è un'esposizione in diverse sedi che abbiamo presentato coprendone il più possibile, anzi direi totalmente. Questa volta andiamo a teatro e siamo per la giornata di domenica. Ci puoi dare qualche informazione ulteriore, Ilaria? Sì, allora domenica 12 maggio alle ore 16 al Teatro Mazzacurati di Bologna va in scena questo spettacolo rievocativo allievo a cura dell'associazione 800 e si intitola Carlotta Gargalli, l'allieva di Canova, quindi si ispira un po' al mio romanzo L'allieva di Canova, insomma per questo che oggi sono qui, e vuole raccontare il personaggio di Carlotta Gargalli, e non solo lei, ma proprio diciamo l'epoca napoleonica di Bologna vista attraverso gli occhi di questa pittrice, di questa artista. È uno spettacolo particolare, come ho detto prima, perché è rievocativo, quindi ci saranno letture del romanzo, però soprattutto ci sarà l'associazione 800 con i suoi ballerini, quindi ci sarà la musica, il flauto, il clavicembalo, e poi ci saranno dei dialoghi e le danze in costume, tutto rigorosamente in costume, da parte dei ballerini dell'associazione 800 e all'interno del Teatro Mazzacurati. Quindi interessante anche il fatto, la location, diciamo così, perché questo teatro è molto suggestivo, quindi fu fatto costruire alla fine del Settecento ed è un luogo molto intimo, raccolto, molto molto bello anche per le sue architetture. E c'è anche un legame con Carlotta Gargalli, perché appunto questo Teatro Mazzacurati sorge dentro la villa Aldrovandi, che questa villa appartenne appunto al conte Carlo Aldrovandi per un certo periodo di tempo, che era stato presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e anche il primo mecenate di Carlotta Gargalli, quindi c'è veramente le attinenze ci sono. E poi è un luogo e un contesto, prima ho citato di realtà e situazioni, sensazioni, luoghi, non luoghi, da scoprire e riscoprire. Per me il contesto Mazzacurati è da valorizzare, è da non dimenticare e soprattutto non vederlo come qualcosa di immediato, no, è veramente una delle perle della nostra città, anche tutto quello che vi è intorno. Sì. Ricordo che nella Bologna dell'epoca quella zona era anche ritenuta di villeggiatura o da weekend per le ricche famiglie che cercavano un pochettino di refrigerio dalle calde estate bolognesi. Se guardate nei dintorni vi sono delle ville assolutamente, così non dico maestose, ma particolarmente graziose, con dei contesti e dei giardini che sono molto interessanti anche dal punto di vista architettonico. Sicuramente tu le avrai notate, Ilaria, perché sì, conosco la tua sensibilità anche per questi aspetti, sì, che vanno a completarne un percorso. Sì, infatti mi veniva in mente a proposito che appunto il conte Carlo Filippo Aldrovandi andava in questa villa un po' in villeggiatura, no? Era la cosiddetta villa di Camaldoli, allora si diceva fuori Bologna, no? Si fa un po' sorridere, perché in realtà oggi siamo ormai ancora in piena città, ma per loro era un luogo di villeggiatura. E noi tra pochissimo rientriamo per parlare dell'allieva di Canova, che è Carlotta Gargalli, oltre che ricordare, dare dettagli per l'appuntamento di domenica, perché con Ilaria daremo approfondimento anche dell'ispirazione figurativa dell'artista. Abbiamo parlato anche di aspetti importanti come prima donna per lo studio, per l'accademia. Anche io ho portato in musica una prima donna, è Annette Peacock, che nel 1972 fu la prima a utilizzare la voce in relazione e commistione con apparecchiature elettroniche. Già dal titolo, Annette Peacock, I'm the One. I just enjoy I'm the One, il brano che stiamo ascoltando è intitolato semplicemente Pony. Ho voluto portare una colonna sonora con altre protagoniste al femminile, ma che abbiano delle particolarità uniche. Carlotta Gargalli nasce nel 1788, correggimi se mi sbaglio, perché io con le date sono veramente un disastro. Ma va bene, giusto. Ok, avrà dei percorsi artistici che troveranno un primato importante per quanto riguarda le belle arti a Bologna e non solo, entrando nella sua ispirazione figurativa, come possiamo definirla, Ilaria, come artista Carlotta Gargalli? Sì, Carlotta Gargalli, allora possiamo definirla un'artista neoclassica, diciamo, principalmente per essere stata allieva di Canova. Giustamente, più neoclassica di lei, ma poi anche per i dipinti che ci rimangono del primo periodo, che sono conservati alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. Quindi abbiamo la Iace che si aggrappa a uno scoglio, Pirro che minaccia Andromaca, e quindi abbiamo tutto questo tema della classicità che riemerge, anche perché sono dipinti realizzati nel primo decennio dell'Ottocento, quindi proprio in quel periodo di pieno fervore e interesse mitologico. E poi Carlotta Gargalli segue un po' lo sviluppo anche dell'arte di quel periodo, quindi possiamo definirla anche una ritrattista, però sì. Perché ad esempio il suo dipinto, il suo capolavoro in assoluto è questo grande ritratto della famiglia De Bianchi, che realizza nel 1817, che è quello che l'immagine, insomma, che è stata utilizzata anche per la copertina del catalogo e della mostra a lei dedicata, e quindi è un grande state portrait, ritratto di questa famiglia un po' in stile Regency, diciamo così, insomma. Azzeccato con questo parallelismo. Ecco, sì. Per usare un termine, insomma, conosciuto da tutti. E poi, insomma, ad esempio un ritratto, la prima opera che realizza, questo ritratto di Andrea Pizzoli, del bambino, che questo bambino, insomma, dagli occhi verdi, con i ricci, e risente un po' dello stile dei Gandolfi. E poi l'ultima opera invece è una Madonna con bambino, che proviene dal Museo delle Osservanze, e questo ci fa capire come lei sia entrata in pieno romanticismo. Quindi c'è appunto questa, dopo la mitologia vengono riscoperti soggetti religiosi, sì, sacri, c'è questo ritorno anche alle tradizioni popolari, alla riscoperta della religione e quindi, insomma, lei può proprio segue un po' l'andamento storico della sua epoca, quindi si passa dai Gandolfi, diciamo, a Bologna, al neoclassicismo e poi alla ritrattistica e infine ai soggetti sacri. Quindi è una pittrice che, diciamo, sperimenta un po' anche, certo, tutti i campi e tutte le possibili soluzioni figurative. E anche quello che sente, perché è un percorso nelle epoche, ricordo, nata alla fine del Settecento, sì, quindi ha una vicinanza con il mito, quello resta anche nei percorsi artistici, una vicinanza con la classicità, con un aspetto epico, neoclassico, con i protagonisti, alcuni citati da Ilaria, anche Pirro che minaccia, sì, Andromaca, Aiace che si aggrappa a questa scogliera. Ammetto che quella è la mia parte preferita, sì, però insomma, giustamente questa, sì, anche è molto una particolare, perché è un, sì, periodo molto breve e poi soprattutto sono soggetti strani per essere fatti da una donna. Brava, ne troviamo pochissimi. Io in quell'ambito io l'ho sempre vista come una piacevole eretica. Sì, se vogliamo, esatto. L'ho sempre trovata come una piacevole eretica. Dopodiché i percorsi si allineano, se vogliamo, sempre mantenendo la sua personalità, con la vicinanza al sacro. Hai citato la Pinacoteca, se vogliamo, sì, ammirare alcuni lavori di Carlotta Gargalli, Ilaria. Ecco, allora, purtroppo facciamo un po' fatica perché sono nei depositi della Pinacoteca. Già. E quindi in particolare, diciamo, però dislocati al momento a Palazzo Malvezzi, quindi la sede della provincia, e è un luogo che insomma è aperto agli addetti ai lavori. Ogni tanto so contento. Che fanno io sono sempre contento quando c'è conferenza stampa a Palazzo Malvezzi, perché mi soffermo a guardare, sì, ammirare queste opere. Sì, ogni tanto so che organizzano delle visite guidate anche con attraverso associazioni, però insomma, diciamo, la grande occasione era quella della mostra Museo 800 per vedere, sì, le opere della Gargalli. Il resto sono un po' disparse tra collezioni private e enti pubblici, però nei depositi, ad esempio il Mambo, ecco, c'è un'opera Artemisia bellissima che viene dal Mambo, però è nei depositi, quindi insomma si fa un po' fatica. Io trovo molto interessante, lo dico sempre e lo ripeterò, chi lavora per portare sotto i riflettori e mettere su un podio molto meritato artiste e artisti che, vista la quantità ovviamente che troviamo, e ovviamente ne siamo ben contenti di questa quantità, ma vogliamo dare il merito al più possibile con queste ricerche, far conoscere protagoniste che meritano assolutamente questo podio, è un lavoro secondo me da sottolineare. Lo facciamo con il Breakfast Club come diffusione per dare merito al lavoro di curatrici, curatori, storiche e storici dell'arte, ricordando che l'estesa esposizione del Museo dell'Ottocento, ovviamente ribadiamo che è protagonista nella nostra città. A proposito di donne che hanno portato nella musica, in questo caso un incontro tra il folk e il jazz, lei è Julie Tippett. La ascoltiamo, torniamo in diretta con Ilaria Chia per darvi ulteriori informazioni e ribadire a proposito dell'incontro di domenica a Villa Mazzacurati. If you never can dream, you're not part of the scheme, and what you plant will grow with each new season. You can leave the land of reason. A breve lo stacco pubblicitario, anche questa seconda parte per quanto riguarda in mostra, visto che è in commistione con In Scena a Teatro, è un appuntamento relativo alla domenica di questo weekend. Aggiungiamo dettagli e ribadiamo l'appuntamento al Teatro Mazzacurati. A te la parola, Ilaria. Sì, allora l'appuntamento è domenica 12 maggio alle ore 16, se volete iscrivervi è necessario, cioè per partecipare è necessaria la prenotazione, dovete andare sul sito dell'associazione Succede Solo a Bologna, Teatro Mazzacurati, e iscrivervi all'evento del 12, il biglietto è gratuito, quindi non c'è... Basta la presenza, però bisogna fare il click, diciamo, per prenotarsi. Ahi, noi lo sappiamo. Infatti. Bene, titolo dell'opera e dello spettacolo? Sì, Carlotta Gargalli, l'allieva di Canova. Ore? Ore 16. Domenica 12 maggio. Al Teatro Mazzacurati. Benissimo. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo, puoi restare ancora un pochettino in diretta perché abbiamo Francesca Sinigaglia, che tu ben conosci, sì. Si sta spostando verso Ferrara, ma sono fiducioso che i collegamenti tecnici non ci tradiranno, quindi tra poco in diretta, in mostra sui 103.1. Oggi abbiamo veramente un parterre d'erois, già la nostra rubrica ricordando l'allieva di Canova e lo spettacolo che sarà al teatro di Villa Mazzacurati per la giornata di domenica. Noi procediamo magari facendo un passettino indietro, però sempre restando legati all'estesa esposizione per il Bologna 800, che è protagonista insieme a tante operatrici e operatori del settore nell'arte, nella curatela e nella ricerca, e dal Museo dell'Ottocento, seppur in viaggio in questo momento verso la bellissima città estense, abbiamo Francesca Sinigaglia. Buongiorno Francesca. Buongiorno a tutti, è un piacere fare colazione con voi. Ma guarda, di solito trovo voci assonnate o anche giustamente qualcuno che... Beh, cioè, piacere fare colazione, te ne devo almeno 10 di colazioni dopo questa affermazione. Intanto ti dico che sono con Ilaria Chia in diretta, per cui abbiamo composto un bel terzetto, guarda. Bene, rimane tutto in famiglia, insomma, ormai... Però lo diffondiamo volentieri, hai capito? Dicevo di un passetto indietro per quanto riguarda l'inaugurazione di uno spazio che non volevo assolutamente perdere, dedicato a un artista. Ci puoi dire qualcosa di più? Luogo, protagonista e tutto? Vai Francesca. Perché sabato mattina ci sarà un evento eccezionale che io ho voluto fortemente, veramente erano anni che assieme al Comune di Bologna stavamo lavorando per questa grande titolazione. Inizialmente doveva essere una via, ma poi alla fine è risultato ancora meglio un giardino, giustamente il giardino Fabio Fabbi, che sarà appunto titolato il giorno di questo sabato, quindi questo prossimo sabato alle ore 10, dove? Sul Reno, cioè al confine tra Bologna e Casalecchio, e c'è un motivo perché Fabio Fabbi muore a Casalecchio di Reno nel 1945, e quindi con Casalecchio ebbe un rapporto molto speciale, ma soprattutto dipinse il Reno, attraverso delle vedute straordinarie delle bagnanti sul lido di Casalecchio, della chiusa di Casalecchio. Quindi abbiamo ritenuto che potesse essere un luogo ideale per ricordare questa, per dare un po' di coscienza storica e di memoria storica nei confronti appunto di un grande artista della nostra Bologna, ecco. Certo. E sarà appunto, diciamo, esattamente questo giardino, perché ancora appunto noi l'abbiamo deciso, ma col fatto che deve essere titolato, naturalmente è una via, è un giardino che non per ora, diciamo, esiste, si chiamava Boschetto, è, diciamo, ma no, vicino... identifichiamolo in maniera più specifica, dai. Esatto, giustamente. Occupiamo con l'arte la città. Ed è sarà all'angolo con via Chiarini, quindi insomma verso proprio di fronte al Reno, è un giardino che dà di fronte al Reno, quindi insomma diciamo che dovremo trovarci alla trattoria Il Paradisino, dove di solito si mangiano le rane fritte. Quindi ecco, per questo. Cui è perfetto. Abbiamo dato anche delle indicazioni ulteriori. Sì, perché dobbiamo trovarle queste indicazioni, perché se ancora non esiste il giardino, comunque dobbiamo in qualche modo capirci tutti insieme, perché ci sarà un grande gruppo. So che verranno tante persone. E quindi per sabato stiamo presentando l'appuntamento, per domenica abbiamo già avuto lo spazio con Ilaria qua in diretta con noi, vi abbiamo impegnato positivamente in nome dell'arte a Bologna tutto il weekend e con il Breakfast Club. Esatto, ne siamo ben contenti di tutto ciò. Allora Francesca, parliamo dell'artista Fabi, ti lascio la parola per farne un breve identikit. Facciamo il punto della situazione, l'abbiamo già fatto ieri pomeriggio in Archiginnasio, dove c'è stata questa conferenza molto importante proprio sull'artista. Io ho parlato assieme a Daniela Picchi e a Clara Maldini e alla direttrice dell'Archiginnasio, Elisa Rebellato, con cui appunto abbiamo fatto il punto della situazione su chi è lui, su chi è stato questo veramente grande personaggio bolognese, perché nasce nel 1861 e muore nel 1945, due date che noi italiani non possiamo dimenticare, cioè dall'Unità d'Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi molto semplice, però in questo lungo spazio di tempo l'artista è riuscito a farsi conoscere veramente a livello internazionale. Un artista che nasce a Bologna in via in strada Santo Stefano 57 e veramente diventa un artista noto in tutto il mondo, come attraverso l'orientalismo. Cioè, sì. Fabi è stato l'artista che nel 1886 va in Egitto, va in particolare ad Alessandria d'Egitto assieme al fratello Alberto e cambia completamente i suoi soggetti. Addirittura Fabi, che era diplomato all'Accademia di Belle Arti in scultura, quindi un'altra branca dell'arte, diventa così, si affeziona talmente tanto all'Egitto, l'Egitto lo cambia talmente tanto che appunto un'altra dea gli sorrideva, e cioè la pittura, ci dicono le fonti. E infatti, tornato in Italia, è tornato in particolare sia a Bologna ma anche a Firenze, riesce a costruirsi una carriera internazionale nel campo della pittura, creandosi veramente i più importanti contatti nel mondo dell'arte, dalle gallerie d'arte internazionali come a New York, ma anche a Vienna le esposizioni dell'epoca, a Monaco, insomma creando soprattutto un Oriente immaginato che è solo suo, e tant'è che Fabi viene definito l'ultimo degli orientalisti. Quindi insomma un artista straordinario a cui mancava una titolazione a livello cittadino. Cioè noi bolognesi, sì. No, era assurdo. A Bologna c'erano appunto le vie che conosciamo bene, come anche la via Mario De Maria davanti alla stazione di Bologna, la via Luigi Busi vicino a San Paolo di Rabone. Insomma ci sono tante vie dedicate ai nostri pittori bolognesi dell'Ottocento, ma mancava Fabio Fabi, che era appunto, adesso ricordiamo che Fabio Fabi, dopo Morandi, è l'artista che a metà, nel fin del siècle, quindi alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, è l'artista che nelle case d'aste internazionali fa delle cifre altissime. Quindi dopo Fabi, dopo Morandi, che ovviamente raggiunge delle cifre molto da alte, capogiro, sì, naturalmente, sì. Parliamo di milioni di euro, Fabi si mantiene sui 200-300 mila, che naturalmente insomma sono cifre comunque veramente alte, direi. E così, facendo di Bologna una città conosciuta in tutto il mondo. Certo, e questo sarà appunto con l'appuntamento che darà per una mia particolare passione, cioè tutti quegli artisti che descrivono, che portano la propria sensazione del luogo. Faccio esatto. Un'altra citazione, perché è uno dei miei, per così dire, una delle mie colonne portanti, che è Antonio Basoli, tutt'altro anche. Artista, altro artista se vogliamo, però nel fantastico ha saputo dare un aspetto visivo a quello che lui intendeva nell'animo, portando anche esatto. delle attinenze concrete. Ecco, per questo aspetto nell'orientalismo di Fabbi potremmo trovare dei parallelismi, anche se Fabi in Egitto c'è stato veramente. Ecco, sì, c'è stato veramente, questo devo dire che era, a un certo punto è stata un'incognita, perché quando feci la mostra su Fabi nel 2021 con Fondo Antico, tutti mi chiedevano, ma allora l'artista c'è stato o non c'è stato in Egitto? E in effetti erano degli interrogativi che mi ero fatta anch'io. Poi ricordiamo, ma ti ricordi benissimo anche tu, che riuscii a trovare i taccuini sì. Proprio che testimoniavano il suo viaggio in Egitto, e quindi questo fu dopo questo ritrovamento tutto fu chiarito. Però in effetti, essendo studiato negli anni Ottanta, soprattutto a livello di critica d'arte, era stato un po' anche declassato, tra virgolette. Sì, questo interrogativo viaggio... c'era. Esatto, esatto. Quindi, insomma, tutto bene quel che finisce bene. Però, ecco, sono lavori di anni. Cioè, certo. facciamo presente che veramente Fabi era stato studiato negli anni Ottanta, poi ripreso da Roli nel 2007, poi ripreso da me nel 2021 assieme a Fondo Antico. Adesso la titolazione, cioè nel frattempo sono passati 30 anni, ma è giusto così, è un iter naturale per gli artisti che nel momento in cui vengono poi rivalutati hanno anche una sì. Di fatto vengono riconsegnati anche alla città. E come ho detto in precedenza, ma per tante e tanti altri in precedenza nel caso di Carlotta Gargalli, dare il podio a chi lo merita giustamente, ma per motivi, se vogliamo, anche di sliding doors, di quantità d'artisti, di percorsi, a volte insomma non hanno quel riflettore che invece assolutamente meritano. E bene il lavoro portato da curatrici storiche, storici dell'arte, per dare approfondimento e portare questa luce, che è un bene per tutte e per tutti. Puoi restare un minuto che ascoltiamo un po' di musica, Francesca? Molto volentieri, poi però dopo vi lascio perché devo sto andando a Ferrara, un quindi minutino, okay. Benissimo. Altro questo disco della Hidden Orchestra, Night Walks, per me è un disco meraviglioso, dall'idea di queste visioni già dalla copertina, non una tempesta di sabbia, ma dai colori un importante deserto che dà sullo sfondo un panorama medio orientale. Lavoro molto bello, da Night Walks, The Hidden Orchestra. Ilaria, vuoi chiedere qualcosa a Francesca, visto che avete collaborato assieme? State collaborando assieme. Vi stupiremo con effetti speciali, tra l'altro, ma questo è un altro capitolo. Ascoltavo con questa intervista su Fabio Fabi, molto interessante. Bisogna ringraziare anche Francesca per l'impegno, la determinazione con la quale continua appunto a scoprire e riscoprire nuove pagine dell'Ottocento bolognese, questi autori molto affascinanti. Però un po' lasciati, rimasti nell'ombra, invece adesso stanno tutti riemergendo. Bene, alla questo luce. È un lavoro nel percorso anche della diciamo che siamo un ottimo estesa. Team sì, li ho scoperto io, sono il Pippo Baldo della situazione. È vero, capito? È vero. Non è vero, è vero, non è vero. È un delirio autocelebrativo, non è affatto vero. No, ma c'è un fondo di verità. Sto millantando dei meriti che non ho. Anzi, io vi ringrazio per la disponibilità che date in frequenza e portare un valore importante al Breakfast Club in mostra e non solo. Diamo alcuni dettagli, li ribadiamo i dettagli per l'incontro a proposito di questa inaugurazione, Francesca? Certo, allora, quindi questo sabato mattina ci troviamo alle 10 meno un quarto presso la trattoria del Paradisino, davanti al Reno, quindi da lì appunto assieme alle istituzioni ci sposteremo verso quello che sarà poi inaugurato come giardino Fabio Fabbi. E tra le istituzioni appunto voglio ricordare naturalmente Elena Di Gioia, che sarà presente, direi che faremo insieme il taglio del nastro, credo di sì, sarà così, penso, non abbiamo ancora, devo dire, organizzato, e con la quale ho costruito queste relazioni in questi anni per appunto poi concretizzare la titolazione, quindi la voglio ringraziare personalmente, ecco. Bene, noi ringraziamo te, oltre tutte a voi, tutti, per questa collaborazione, augurandoti un buon viaggio. Non anticipiamo nulla, ma no, sappi che sarai messa sotto torchio anche per quanto riguarda questa tua escursione estense. Noi ti auguriamo ottimo, buon viaggio, buon lavoro e poi avremo grazie, le notizie molto presto. Ciao, e ciao, e grazie anche a Ilaria, buona giornata, buon lavoro ciao, a tutti. Ciao, arrivederci. Buon viaggio, ciao. Siamo arrivati ai saluti per questa puntata estesa in mostra, tra l'altro il Lungo 800 appunto è una serie di esposizioni estese per la nostra città che, come avete ben ascoltato, ha possibilità non certo di contorno ma per complementare questi percorsi molto esaustivi e anche esteticamente molto importanti, nonché di un contenuto culturale e di lavoro elevato. Beh, io saluterei ricordando l'allieva di Canova, di Ilaria Chia. Sei arrivata sì, in redazione così mattiniera, almeno che ricordiamo adesso questo lavoro. L'allieva è a vostra Canova, disposizione, sì, certamente. Casa editrice? Damster il Loggione. Quindi lo trovate nelle librerie di Bologna e ovviamente su internet, su Amazon, insomma abbastanza. Nelle librerie meglio, ecco, sì, nelle librerie meglio, di Bologna. Se potete meglio andare di persona. Avremo modo di risentirci, tanto Ilaria stiamo sempre in contatto per quanto sì, riguarda volentieri i contenuti relativi all'arte e non solo. A breve l'Edipo Enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, poi la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Domani andiamo in scena con diversi appuntamenti, anche quello del Teatro di Ricerca Musicale San Leonardo per la 34esima edizione di Angelica, che come ben sapete con il Breakfast Club Altri Suoni seguiamo con grande

I didn't wanna see the film tonight. I found it hard to say. She thought I'd had enough of her. Incontri pomeridiani senza titolo, per ora. Conduce in studio Alberto Manzi. Regia di Nini Perno. Eccoci qui per un'ennesima puntata. Sì. Dell'Edipeo. Dell'Edipeo. Oggi parliamo... ti ricordi i badanti robot? Come no? Eh? Come dimenticarli? Ne parlammo un po' di tempo fa, qualche mese fa, e quelli lo inventarono quelli della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Beh, quei diavoli della Sant'Anna ne hanno inventato un'altra. Hanno inventato il pene robot. E entro un anno sarà disponibile già il prototipo. È una protesi realizzata con materiali smart ed elastici, biocompatibili, in grado di rispondere ai comandi e agli stimoli. Questo grazie ad alcuni sensori posti sulla superficie esterna, studiati appositamente per ottimizzare il ritorno sensoriale. Tutte le informazioni che passano da qui sono elaborate da un microcontrollore che attiva la stimolazione attraverso gli elettrodi collegati al sistema nervoso. Insomma, se l'attuale falloplastica permette di recuperare la sensibilità in maniera limitata, consentendo l'erezione solo tramite il controllo manuale, questa protesi robotica invece permetterà di recepire gli stimoli naturali del desiderio sessuale. E i progettisti sono assolutamente convinti che appunto questo prototipo sarà pronto entro un anno. E poi dicono che è un sistema particolarmente innovativo rispetto alle soluzioni attuali. Infatti fino adesso chi aveva dei problemi, diciamo, in questo ambito si doveva rivolgere assolutamente alla falloplastica, mentre ora invece c'è stato trovato questo nuovo ritrovato. L'occasione è stata il corso High Tech Business Venturing del Sant'Anna, coordinato dal professore Andrea Piccaluga, che consente